Manca poco, poco più di una settimana al momento nel quale la mobilità tra le regioni dovrebbe essere ripristinata. Rimangono solo due territori in bilico, la Lombardia e la Basilicata. I dati ci diranno tutto, ma quali dati e calcolati come? Il famoso R con T, ossia l'indice di contagio e l'adeguatezza del sistema sanitario, oltre ad altri parametri. In realtà l'ipotesi di nuovi lockdown localizzati è legato anche ad altro, a quelle scene di bevute e chiacchierate serali che tanto hanno indignato una parte della politica del paese, la temibilissima Movida, contro la quale si intendono schierare 60.000 assistenti civici. Ci sarà un bando e verranno pescati tra disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza e così via. Cosa faranno? Non è ancora chiaro. A proposito di bandi, nella notte la maggioranza ha trovato l'accordo sul concorso per i precari della scuola. Gli altri temi sul piatto, la riforma del CSM dopo l'ondata di pubblicazioni dalla chat di Palamara, i prestiti garantiti alle grandi aziende con i Benetton in prima fila, ma mettiamo la testa fuori e guardiamo anche cosa sta succedendo ad Hong Kong, dove i divieti da Covid stanno spingendo la Cina ad una nuova ondata di repressione. 180 arresti e gli Stati Uniti che annunciano nuove possibili sanzioni. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. L'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po' se non è capace in questo caso di distruggere quel piccolo maledetto verme microbo che si chiama coronavirus. Ce la faremo, sicuramente ce la faremo. I'm free to do what I want. L'assistente civico è un navigator che non ce l'ha fatta, ci scrive Max da Crema. Niente male. Intanto iniziamo in questo lunedì 25 maggio alle 6:32 minuti, questa nuova puntata, questa nuova settimana di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, abbiamo iniziato con Albano ieri a Domenica Inn, che fa un errorino di 50 milioni di anni più o meno e attribuisce la scomparsa dei dinosauri agli uomini. E però, prendiamo la parte positiva, ce la faremo. Buongiorno e buon inizio di settimana. L'abbiamo voluta prendere un po' leggera questa apertura di settimana. La task force di questa mattina: Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli e Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E voi, la vera task force. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp audio. Dai. Parliamo un po' di questi assistenti civici. Cosa dovranno fare? Saranno come gli steward allo stadio? Chissà. Questa movida che fa tanto discutere, le città che progettano nuove chiusure, Brescia che fa le piazze a numero chiuso, come la vedete? Poi giovani, si fa per dire, lo notavamo con Lorenzo Nespoli, sì, ci sono tanti ragazzi, ma in realtà c'è un sacco di gente in giro, over 40, insomma, è sempre il malinteso concetto di giovani di questo paese. Allora, questo fine settimana, tra le tante cose che cosa ha visto? Un po' di confusione su questo famoso indice R con T, l'indice di contagio, insomma, quello che dovrebbe dirci a che punto siamo. E la confusione l'ha fatta un po' l'assessore alla sanità Lombardo Gallera, che è finito nel mirino di tutti, dei social, ma non solo loro. Ma sentiamo cosa ha detto. Lo ricordiamo, 051 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare i medici. No. Che facciamo? Mettiamo Burioni, Carmelo, Lauricella, e così lo spieghiamo un po' meglio. Se il numero è a 0,5 vuol dire che 200 persone ammalate ne contageranno 100, ma l'evento del contagio è sempre legato a uno che incontra uno, anzi c'è una cosa che noi abbiamo appreso, e purtroppo con l'esperienza per quanto riguarda questo virus, che non sono 200 persone che ne infettano 100. Probabilmente ci sono poche persone più contagiose, sono responsabili di moltissimi contagi. Mi sembra un po' più chiaro così. E soprattutto più corretto scientificamente. Si dice preoccupato il presidente Veneto Zaia. Sono preoccupato del fatto che non si cali la guardia, sono preoccupato del fatto che gli assembramenti, le movide o gli happy hour vadano nella direzione che poi magari ci portino a un ricontagio. La contabilità ce l'avremo la volta di giovedì prossimo, dopo 10 giorni vedremo anche il carico, l'eventuale nuovo carico negli ospedali e gli eventuali focolai che si possano verificare, però ad oggi non abbiamo evidenza. Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità. Gli indicatori mostrano che le cose stanno andando benino, sappiamo che il virus continuerà a circolare, vedete come trova l'occasione, magari fa subito il grappolo di casi, quindi bisogna immediatamente tenerlo sotto controllo, ma mi sembra che globalmente stia aumentando la resilienza delle regioni, cioè stia aumentando la capacità di identificare i focolai, è questo che vogliamo. Vogliamo che questa attenzione venga mantenuta costantemente elevata. Avete sentito Zaia, La Regione Veneto ha fatto anche uno spot. Vi consiglio di andarlo a vedere, la parte video. Comunque un po' di descrizione ve la do io, e però possiamo sentirne la parte audio. Basta poco. Qualche centimetro in meno. Una svista. Una pacca sulla spalla. Un saluto più caloroso. Una risata innocente. Una stretta di mano. Una leggerezza. E tutto tornerà a fermarsi. E insomma, si vede questa scena di ragazzi che bevono, uno si toglie la mascherina e parla nell'orecchio ad un altro, due con la mascherina abbassata che parlano, e la scena successiva è dentro un ospedale con delle persone attaccate a dei respiratori, e il tutto si ferma, è rappresentato dal fermo immagine, no? Da questi ragazzi che si bloccano con i bicchieri in mano. Alzati. Cara Francesca Sforza della Stampa, buongiorno, come stai Francesca? Buongiorno a voi. Sei andata a bere nel fine settimana, sei andata in giro a ubriacarti pericolosamente con la mascherina abbassata, o sei stata tranquilla a casa? No, diciamo che sono stata abbastanza tranquilla a casa, direi tranquilla a casa, e io sono piuttosto incuriosita per esempio dai dati di un recente sondaggio che racconta invece come la maggioranza degli italiani resti appunto tranquilla a casa, e sono colpita perché la spiegazione l'ho trovata interessante, e è come se dicevano gli esperti della DOCRA che hanno condotto l'analisi, è come se avessimo subito una sorta di ictus sociale. Allora, fatta eccezione per i ragazzi della movida, su cui giustamente si concentrano le preoccupazioni ma anche l'attenzione, davvero la stragrande maggioranza degli italiani, parliamo secondo questi dati del 63%, quindi davvero più della metà, e restano a casa, e io credo che sia una percezione che si può avere anche in grandi città come Roma, dove magari è fatta eccezione per alcuni luoghi di concentrazione, la città è tutto sommato deserta, soprattutto nelle ore serali e notturne. E cos'è l'ictus sociale? Mi ha incuriosito questa espressione. Come quando si esce fuori da una malattia cardiaca, si ha subito voglia di ricominciare, ma si capisce che si deve ricominciare in modo diverso, sì, perché il corpo in qualche modo non regge, no, al ritmo precedente, più malgrado lentamente, la volontà sia ancora più lentamente, più lentamente. No, capisco, capisco perfettamente, insomma, poi diciamo, ci sono passato da quella, da quella malattia cardiaca, quindi tutto sommato lo so. Cioè, uno ne esce e con molta attenzione, cioè prima passeggiare, poi passeggiare sempre un po' più lontano, poi ancora più lontano, esatto, e poi piano piano riprendere la vita di prima, ma con tutto le precauzioni che devi avere rispetto alla vita precedente. Non è male il paragone, che forse c'è anche qualcuno che ha effettivamente paura a mettere la testa fuori. Anche questa è una sindrome possibile, gli psicologi ne stanno parlando, ci stanno ragionando, perché è un tema, no? Ti sei trovato in fondo bene in quella tana, no? è un po' difficile uscire. Altri invece reagiscono come reagiscono i ragazzi, poi che ragazzi, insomma, come dicevamo, ragazzi fino a un certo punto, sì, no? Che invece decidono di andare fuori subito, quasi rinunciando alla precauzione come una sorta di sfogo. Gli assembramenti, no? Sentiamo i vigili di Napoli, Carmelo, Loricella, vai. Sì, anche assembramenti di ragazzi in giardinetti, abbiamo riscontrato, e infatti abbiamo dovuto intervenire anche durante la notte con la centrale operativa nostra. Eccoli. E poi sì, c'è anche il tema, come ci dice un ascoltatore o un'ascoltatrice, ma dove si devono vedere questi ragazzi? Hanno solo le piazze? Sì, forse semplicemente avere un po' più di cautela, appunto, utilizzare le mascherine, utilizzare le protezioni, evitare, no, di diffondere il contagio. Io, guardate, qua siamo ben lontani dall'essere antimovida, a parte la parola, come ben sapete, ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, questa parola non la sopporto, però non se ne riesce a trovare una che descriva perfettamente, no, tutto questo misto che fa parte di aperitivi, vita notturna. Qualcuno suggerisce Covida, dai su, però Covida è orrendo, non si può sentire. Va bene. Allora, Francesca, intanto arrivano i difensori civici, questa curiosa idea di 60.000 persone chiamate in causa con un bando, presi tra i percettori di reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Dovrebbero fare un po' come gli steward negli stadi, se ho capito bene. Sì, non so, francamente non mi sembra una misura convincente, ma al di là della sua, come dire, messa in pratica, mi sembra sia l'indicatore davvero di mi spiace dirlo, ma un po' di infantilismo, perché allora non è che c'è una regola, cioè mi sembra che si stia perdendo di vista il fatto che la regola non viene messa per costringere. Cioè, leggo molto, queste regole ci costringono a non uscire, queste regole ci costringono a non fare, a non dire. Allora, tutti soffriamo l'isolamento, in alcune categorie lo soffrono più di altre, e le regole però sono dettate da un'emergenza, che non è, come dire, un'emergenza imposta dall'alto, è un'emergenza che chiunque abbia avuto un caso di coronavirus o un conoscente sa perfettamente quanto sia grave. Allora trovo che paradossalmente queste forme di tutela della cittadinanza imposte in modo obbligatorio aumentino l'infantilismo della cittadinanza stessa. Credo che bisogna un pochino anche guardare come fanno gli altri, cioè nessuno ha avuto bisogno di queste figure di mediazione tra il decisore politico e le persone, perché, come dire, le persone sono, sì, ma poi, anche ma poi aggiungo, perdona Francesca, che in piazza ci devi mandare gente preparata, non è che ci mandi, non è che gli steward che mandi allo stadio sono, certo, presi, sono pescati a caso e poi e messi là, è gente che ovviamente viene preparata. Poi ci sono tutte le altre questioni, naturalmente. Qua abbiamo parlato finora solo di Movida, ma e di, insomma, di tutte queste, però ci sono questioni molto più serie, hanno a che fare per esempio con tutta la vicenda del prestito con garanzia della SACE, chiesto da una serie di grandi aziende italiane, Fiat Chrysler, e ve lo avevo detto in rassegna stampa la settimana scorsa quando era uscita la notizia, guardate che questa storia delle aziende di Benetton che chiedono il prezzo con garanzia SACE esploderà, perché lo scontro è stato intorno, dopo la vicenda di Ponte Morandi, è stato troppo forte evidentemente. E dunque si apre questo capitolo, perché Atlantia dice ce lo date questo prestito oppure fermiamo gli investimenti sulla rete autostradale. Così il vice segretario del PD Orlando. Direi che sarebbe meglio evitare ultimatum e ricatti, questo lo dico senza voler minimamente precludere la possibilità per un'impresa di accedere a un prestito, ma per quello che c'è stato in questa regione, in questa città, credo che forse i toni, almeno dopo tutto quello che è avvenuto, sarebbe meglio che si cambiasse. Il vice ministro alle infrastrutture, Cancelleri. C'è il ricatto, la logica del ricatto, la logica di chi in ogni momento non perde mai un attimo per andare lì e dire guardate che o si fa come dico io oppure non si fa in nessun altro modo. Ebbene, allora vi dico quello che penso, vi dico quello che pensa il Movimento 5 Stelle, ci abbiamo perso soltanto tempo. E così dunque, così molto ci si concentra su Atlantia, molto ci si concentra su Fiat Chrysler, un po' ignorando il fatto che dei prestiti sopra i 25.000 euro, tra i 25.000 e gli 800.000 euro richiesti, finora ne sono stati erogati solamente il 25%, approvati solamente il 25%, e solo il 60% dei prestiti fino ai 25.000 euro. Suggerirei anche di concentrarsi su questo, oltre che sulle grandi aziende traffico. Del resto, se i soldi non arrivano in fretta, cosa succede? Lo spiega bene il ministro dell'Interno, Lamorgese. Se noi non saremo in grado di seguire, ma quello devo dire che stiamo mettendo in atto tutte le precauzioni e le modalità necessarie, c'è il rischio che poi quella che è il senso di responsabilità fino ad ora avuto dai cittadini si trasformi in rabbia, e noi quello dobbiamo evitarlo assolutamente. E visto che siamo su questi temi, saluto Andrea Garnero, che è economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'Ocse. Buongiorno Garnero, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, buongiorno a voi. Che sfruttiamo a volte quasi come corrispondente dalla Francia per farci raccontare un po' come vanno le cose. Ci arriveremo tra un attimo alla questione della Francia. Ma prima le voglio chiedere questo. C'è qualcosa che si è inceppato e continua ad essere inceppato nei meccanismi di erogazione di cassa integrazione, sia quella normale sia quella in deroga, che deve passare a una procedura più complicata, deve passare dalle regioni, lo sappiamo, una parte dei problemi è stata questa. Cosa sta succedendo, Garnero? C'è un difetto di fondo, secondo lei? È fisiologico, no, questo ritardo? No, fisiologico no. Proprio se prendiamo la comparazione con gli altri paesi, leggevo ieri nell'intervista del presidente Tridico che menzionava l'Inghilterra, il Regno Unito, che ha introdotto una sorta di cassa integrazione dal nulla, e abbiamo visto come appunto non avendo né gli strumenti né i mezzi né la conoscenza del sistema, in un mese e mezzo i pagamenti sono partiti e ora sono a pieno regime. Quindi anche un paese che partiva dal nulla alla fine ci ha superato, quindi non è fisiologico il problema, come dice lei, è istituzionale innanzitutto. Questo passaggio dalle regioni è sostanzialmente inutile a mio avviso, tanto che lo hanno tolto adesso nel decreto del rilancio, quindi non era un passaggio così fondamentale. E poi ovviamente ci sono ritardi storici che non sono una novità di oggi. Il Sole 24 Ore sarà almeno 10 anni che fa il conto del numero di decreti attuativi che servono a attuare le norme e i ritardi che vengono presi. Il problema è che in tempi normali questi ritardi sono accettabili, quasi o comunque accettabili, meno gravi, sì, esatto, sì. In tempi così gravi in cui ogni giorno è decisivo perché il tempo è denaro, come si dice, sono ritardi che ci mettono, mettono il paese a uno svantaggio di competitività e di resistenza con gli altri paesi inaccettabile e molto grave. Senta Carnero, veniamo alla Francia, ci dice un po' come stanno andando le cose, perché abbiamo visto un po' di stop and go nelle decisioni francesi sulle cosiddette fasi 2, solo in alcune zone, la questione della riapertura delle scuole, insomma mi sembra un po', no, mi sembra fluida, come si dice in gergo, la situazione francese. Sì, la Francia continua a essere abbastanza fluida come in altri paesi, onestamente, nel senso che anche qui si procede senza sapere benissimo, sotto la pressione economica e sociale di voler riaprire nonostante non si abbiano tutti gli strumenti, con in più il fatto che la popolazione francese ha in generale un grado di sfiducia nei confronti delle istituzioni piuttosto elevato, e questo magari può sorprendere dal punto di vista italiano, ma lo faceva vedere anche un'inchiesta scientifica dove si vedeva che la parola sfiducia era tra quelle più menzionate, e non hanno aiutato alcune cose che sono successe anche in Italia, come inizialmente dire che le mascherine non erano utili e poi dire che invece ora le mascherine sono obbligatorie nei trasporti e in tutte le altre occasioni pubbliche, e alcune comunicazioni poco chiare tra governo e cittadini. Quindi al momento il governo ha dato un piano di apertura anche abbastanza dettagliato, basato su dei criteri che cambiano da regione a regione. Io sono a Parigi e Parigi è tra le regioni più colpite, ancora quelle dove sono più ristrette, i parchi sono chiusi, gli spostamenti oltre 100 km non sono ancora possibili. Però quello che manca è un piano che sia chiaro e condiviso dalla popolazione a lungo termine, che si basi su alcuni elementi scientifici, ma soprattutto sulla fiducia nei confronti di questi elementi, di cosa il governo ne fa. Ora si ridiscute di fare le famose elezioni, non so se vi ricordate che sì, l'ultima certo. cosa che fu fatta erano le elezioni, ora si discute a quando rimetterle, diciamo tensioni simili a quelle italiane, le vediamo dalle elezioni regionali, qui sono le elezioni locali, i 100 chilometri, i bar chiusi o aperti, le mascherine, quindi un dibattito simile. Non cambia molto, no. Questo virus, come diciamo, ci ha gettato in una terra incognita nella quale un po' tutti i governi faticano a capire esattamente cosa fare e come muoversi, con le debite differenze, chi più in una direzione, chi più in un'altra. Le scuole a fine ha riaperto Carnero, non ha riaperto, solo in parte, no? Mi sembra di aver capito, e con i genitori che volontariamente decidono se mandare i figli oppure no. Hanno riaperto solo in parte e non solo volontariamente, dipende dal grado di essenzialità, diciamo, del lavoro del genitore, ecco, quindi non tutti i genitori che vogliono mandare i figli possono mandarli, sono soprattutto per le scuole più piccole, poi alcune hanno anche richiuso nel frattempo per nuovi contagi che sono partiti, quindi quest'anno più o meno anche qui sono state discussioni simili sulla maturità, che se possibile è un rito di passaggio ancora più importante che in Italia, quindi quest'anno purtroppo anche qui l'anno è sostanzialmente perso. Di nuovo la questione è capire come riaprire, perché c'è sempre grande insistenza in moltissimi paesi, non solo Italia, su quando riaprire, ma più è sul come riaprire e che criteri darsi, perché questa storia delle scuole che hanno riaperto, alcune scuole, non è la maggioranza, ma poi si sono trovate a richiudersi, dimostra come sia necessario darsi dei criteri anche chiari, ex ante, di come sarà necessario procedere se ci saranno nuovi focolai, perché non prendiamoci in giro, allo stato della conoscenza medica attuale, non solo medico ma da quello che leggiamo, allo stato della conoscenza medica attuale non possiamo pensare che sia tutto finito. Certo. Magari nel migliore dei casi potrebbe essere passato un pochino la gravità con il caldo, poi vedremo, a settembre si potrebbe ricominciare, quindi certo. Serve un piano chiaro per tutti, cittadini, lavoratori, insegnanti e genitori. Naturalmente, intanto faccio notare agli ascoltatori che il governo, la maggioranza si è divisa in maniera lacerante, arrivando arrivando ieri sera ad un accordo sul tema del concorso dei precari della scuola, del quale, insomma, massimo rispetto per i precari della scuola, però sul tema appunto del riaprire, come riaprire, che dovrebbe essere anche una questione politica, ebbene, di fatto si è affidato tutto ai tecnici. Grazie Francesca Sforza della Stampa, grazie Andrea Garnero, economista presso il Dipartimento Lavoro e Affari Sociali dell'OCSE. Cosa vorreste fare agli assistenti civici nelle nostre piazze? Cosa? 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.